ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Terza puntata. La porta si aprì dolcemente ed entrò qualcuno che sbalordì il cane al punto da farlo abbaiare, ma molto timidamente. «Buono, bah, ma lei è riconoscibile, mio caro!» Il nuovo venuto, con fare molto rispettoso e titubante, rivolse un inchino a Filip Filippovich. «Lei, professore, è un mago, un incantatore!» proferì questo impacciato. «Si levi i pantaloni, mio caro!» ordinò Filip Filippovich e si alzò. «Gesù santissimo!» pensò il cane. «Ma guarda che tipo!» Sulla testa dell'individuo crescevano dei capelli completamente verdi e sulla nuca tendevano invece a un color tabacco rossiccio. Le rughe gli solcavano il volto, ma il colore del viso era rosato come quello di un bimbo piccolo. La gamba sinistra non si piegava, la si doveva strascicare sul tappeto, mentre la destra saltellava come quella di uno schiaccianoci giocattolo. Sul risvolto della magnifica giacca, come un occhio, sporgeva una pietra preziosa. Il cane ne fu così affascinato che quasi gli passò la nausea. «Wow, wow!» abbaiò piano. «Buono! Come vanno i sogni, mio caro?» «Siamo soli, professore? È indescrivibile!» esordì confuso il visitatore. «Parole d'honneur! Da 25 anni mai niente di simile!» L'individuo afferrò un bottone dei pantaloni. «Mi creda, professore! Ogni notte frotte di ragazze nude, ne sono positivamente incantato. Lei è un mago.» Borbottò preoccupato Filip Filippovich esaminando le pupille dell'ospite. Questi finalmente venne a capo dei bottoni e si levò i calzoni rigati. Sotto di loro apparvero delle mutande mai viste. Erano color crema con sopra ricamati dei gatti neri in seta ed erano profumate. Il cane non resse la vista dei gatti e abbaiò in modo tale che l'individuo fece un balzo. «Ai! Te le suonerò! Non abbia paura, non morde!» «Non mordo!» si stupì il cane. Dalla tasca dei calzoni, colui che era appena entrato lasciò cadere sul tappeto una bustina piccola piccola su cui era raffigurata una bella ragazza con i capelli scompigliati. L'individuo fece un balzo, si chinò, la raccolse e arrossì violentemente. «Comunque lei deve stare attento», disse Filip Filippovich con fare ammonitore e accigliato, minacciando col dito. «Deve stare attento a non abusarne.» «Io non ne ab...» prese a far fugliare confuso l'individuo, continuando a spogliarsi. «Io, caro professore, lo faccio solo in forma di esperimento.» «Beh, e allora quali sono i risultati?» domandò severamente Filip Filippovich. L'individuo in estasi fece un gesto con la mano. «Da 25 anni, lo giuro davanti a Dio, professore, nulla di simile. L'ultima volta nel 1899 a Parigi, in Rue de la Paix.» «E perché è diventato verde?» Il volto del nuovo venuto s'offuscò. «Maledetta fabbrica Zirkost! Non puoi immaginare, professore, che cosa mi abbiano appioppato quei fannulloni al posto della tintura. Guardi qui!» borbottò l'individuo cercando uno specchio con gli occhi. «È orribile! Bisogna spaccargli il muso!» soggiunse inferocito. «Che devo fare adesso, professore?» domandò con voce piagnucolosa. «Si rapi a zero!» «Professore!» esclamò il visitatore con fare lamentoso. «Ma quelli cresceranno di nuovo bianchi! Inoltre non potrò più farmi vedere al lavoro, già così sono 3 giorni che non vado. Viene la macchina e io la mando via. Professore, se lei riuscisse a scoprire il mezzo per ringiovanire anche i capelli!» «Non tutto in una volta, impossibile, mio caro!» borbottò Filip Filippovich. Chinatosi, con gli occhietti luccicanti, ispezionava la pancia nuda del paziente. «Beh, benone, è tutto in perfetto ordine. A dire la verità, non mi aspettavo un simile risultato. Molto sangue. Si rivesta, mio caro.» «Io colei che di tutte è la più bella!» intonò il paziente con voce sfrigolante come una padella e, raggiante, cominciò a vestirsi. Rimessosi in ordine, saltellando e spargendo odore di profumo, contò per Filip Filippovic un fascio di banconote bianche e si mise a stringergli teneramente entrambe le mani. «Per 2 settimane può fare a meno di venire», disse Filip Filippovic, «ma comunque le raccomando di stare attento». «Professore», esclamò la voce statica da dietro la porta, «stia assolutamente tranquillo», ridacchiò deliziata e sparì. Il trillo del campanellino si rovesciò in volo per l'appartamento. La porta laccata si aprì, entrò l'azzannato, consegnò un foglietto a Filip Filippovic e dichiarò: «Gli anni indicati non sono giusti. Con ogni probabilità 54-55. I toni del cuore sono piuttosto sordi». Scomparve e al suo posto si fece avanti una signora frusciante con un cappellino portato baldanzosamente sulle 23 e un collier scintillante attorno al collo avvizzito e flaccido. Sotto agli occhi aveva terribili borse nere e le guance erano rosee come quelle di una bambola. Era molto agitata. «Signora, quanti anni ha?» le chiese Filip Filippovic con grande severità. La signora si spaventò e arrivò a impallidire sotto allo strato di belletto. «Io, professore, le giuro, se lei conoscesse il mio dramma...» «Quanti anni ha, signora?» ripeté Filip Filippovic con crescente severità. «Parola d'onore, beh, 45. «Signora!» si mise a urlare Filip Filippovic. «Mi stanno aspettando, la prego, non mi faccia perdere tempo. Non è certo l'unica». Il petto della signora si sollevò impetuoso. «A lei solo, come luminare della scienza? Ma le giuro, è un tale orrore. Quanti anni ha?» domandò Filip Filippovic con voce acuta e furente e i suoi occhiali lampeggiarono. 51, rispose la signora, contorcendosi per l'orrore. «Si levi le mutande, signora», proferì sollevato Filip Filippovic e indicò un alto patibolo bianco in un angolo. «Le giuro, professore», mormorava la signora mentre con dita tremanti slacciava certi bottoni sulla cintura. «Quell'Alphonse, le confesserò come allo spirito». «Da Siviglia fino a Granada», intonò Filip Filippovic distratto e pigiò il pedale del lavabo di marmo. L'acqua prese a scorrere. «Giuro davanti a Dio», diceva la signora, e chiazze intense le si propagavano sulle guance attraverso quelle artificiali. «Lo so, si tratta della mia ultima passione ed è un tal mascalzone. Oh, professore, è un baro alle carte, è una cosa che sa tutta Mosca. Non si lascia scappare nemmeno una schifosa modista. Ed è così diabolicamente giovane!» La signora mormorava e intanto si sfilava da sotto la gonna frusciante un brandello di pizzo sgualcito. Il cane s'annebbiò completamente e tutto in testa gli andò a finire a gamba all'aria. «Ma andatevene al diavolo!» pensò incerto. Posò la testa sulle zampe e s'assopì per la vergogna. «E non mi sforzerò nemmeno di capire di che roba si tratti. Comunque non lo capirò». Fu destato da un tintinnio e vide che Filip Filippovic stava buttando alcuni tubetti lucenti in un catino. La signora, acchiazzata, serrando le mani al petto, guardava speranzosa Filip Filippovic. Questi aveva aggrottato le sopracciglia con aria di importanza e, seduto alla scrivania, stava annotando qualcosa. «Signora, le trapianterò le ovaie di una scimmia», le comunicò e la guardò severamente. «Ah, professore, possibile che debbano proprio essere di scimmia?» «Sì», rispose inflessibile Filip Filippovic. «E quando sarà l'operazione?» chiese la signora pallida e con voce debole. «Da Siviglia fino a Granada». Lunedì. Si ricoveri in clinica al mattino, il mio assistente la preparerà». «Ah, non voglio in clinica, non è possibile nel suo studio, professore». «Vede? Opero nel mio studio solo in casi estremi. Costerà molto caro». «Accetto, professore». Di nuovo ci fu uno scroscio d'acqua. Il cappellino con le piume ondeggiò, quindi spuntò una testa calva come un piatto. Abbracciò Filip Filippovic. Il cane sonnecchiava, la nausea era passata. Il cane se la godeva con il fianco che non doleva e il tepore. Arrivò persino ad appisolarsi e fece in tempo a vedere un brandello di un sogno gradevole. Era come se avesse strappato alla civetta un intero ciuffo di penne dalla coda. Poi una voce agitata latrò sopra la sua testa. «Sono troppo conosciuto a Mosca, professore. Che fare a questo punto?» «Signori», gridava sdegnato Filippo Filippovic, «così non è possibile. Bisogna sapersi trattenere. Quanti anni ha la ragazza?» 14, professore. Lei capisce? La pubblicità mi ucciderà. A giorni devo ricevere l'autorizzazione per un viaggio all'estero.» «D'altronde non sono un avvocato, mio caro. Beh, aspetti un paio d'anni e se la sposi.» «Sono sposato, professore.» «Ah, signori, signori!» Le porte si aprivano, le facce cambiavano, gli strumenti nell'armadio sbattevano rumorosi l'uno contro l'altro e Filippo Filippovic lavorava senza posa. «Che razza d'appartamento!» pensava il cane. «Però come ci si sta bene? Ma a che diavolo mai posso servire a uno così? Possibile che mi lasci stare qui dentro? Che tipo strambo! Gli basterebbe solo strizzare un attimo gli occhi e si ritroverebbe uno di quei cani che ti lasciano senza parole. Ma forse anch'io sono bello. E comunque è chiaro che sono fortunato, mentre quella civetta è una schifezza sfrontata.» Il cane si svegliò definitivamente a tarda sera, quando gli scampanellii cessarono e proprio nel momento in cui la porta lasciava entrare dei visitatori di un genere particolare. In un colpo solo ne entrarono addirittura 4. Erano tutti giovani e vestiti tutti in modo modesto. «E questi cosa vorranno mai?» pensò il cane stupito. Filippo Filippovic accolse gli ospiti in modo ben più ostile. Si era schierato accanto alla scrivania e li squadrava come un condottiero squadra i suoi nemici. Le narici del naso aquilino si gonfiavano. I nuovi venuti scalpicciavano incerti sul tappeto. «Siamo venuti per parlare con lei, professore», esordì quello tra loro sulla cui testa si ergeva una chioma di capelli neri, folti e riccioluti, alta 20 centimetri. «Ecco a che proposito. Voi altri signori fate male ad andare in giro senza calosce», l'interruppe Filippo Filippovic con tono ammonitore. «In primo luogo potreste prendervi un'infreddatura e in secondo luogo mi avete sporcato i tappeti e i miei tappeti sono tutti persiani.» Quello con la chioma folta tacque e tutti e 4 fissarono stupiti Filippo Filippovic. Il silenzio si protrasse per alcuni secondi, interrotto soltanto dal tamburellare delle dita di Filippo Filippovic su un piatto di legno dipinto che stava sulla scrivania. «In primo luogo non siamo dei signori», proferì alla fine il più giovane dei 4, che di faccia sembrava una pesca. «In primo luogo», Filippo Filippovic interruppe pure lui, «lei è un uomo o una donna?» I 4 s'azzittirono nuovamente e spalancarono le bocche. Questa volta fu il primo, quello dalla chioma folta, a riprendersi. «Che differenza fa, compagno?» domandò Altero. «Io sono una donna», ammise il giovane con la faccia simile a una pesca e con indosso una giubba di cuoio, e arrossì violentemente. Dopodiché, senza che ci fosse un motivo, si fece di brace anche un altro dei nuovi venuti, un biondino con il colbacco. «In tal caso può tenere in testa il berretto, mentre a lei, egregio signore, devo chiedere di levarsi il copricapo», disse Filippo Filippovic con aria grave. «Io per lei non sono un egregio signore», comunicò bruscamente il biondino cavandosi il berretto. «Noi siamo venuti da lei», di nuovo ricominciò quello nero dalla chioma folta. «Innanzitutto chi sarebbero questi noi?» «Noi siamo la nuova amministrazione della casa», proferì il nero con furia trattenuta. «Io sono Schwonder, lei Vjavzemskaya, lui è il compagno Petrushkin e quella è Zarovskin. E noi...» «Siete voi che vi siete insediati nell'appartamento di Fyodor Pavlovich Sablin?» «Proprio noi», rispose Schwonder. «Dio santo, è andata in malora la casa Kalabushkov», esclamò disperato Filippo Filippovic e allargò le braccia. «Che le piglia, professore? Sta scherzando?» s'indignò Schwonder. «Altro che scherzare! Sono in preda alla più profonda disperazione», gridò Filippo Filippovic. «Che ne sarà adesso del riscaldamento a vapore?» «Ci prende in giro, professor Probacensky?» «Per quale motivo siete venuti da me? Ditemelo il più in fretta che potete, devo andare a mangiare.» Noi, l'amministrazione della casa, proferì Schwonder con odio, siamo venuti da lei dopo l'assemblea generale degli inquilini della nostra casa, assemblea in cui è stata posta la questione del ripopolamento degli appartamenti della casa. Chi ha posto che cosa? Esclamò Filip Filipovic. Sforzatevi di esprimervi più chiaramente. È stata posta la questione del ripopolamento. Basta, ho capito. Voi siete a conoscenza del fatto che con la delibera del 12 agosto il mio appartamento è stato esentato da qualsiasi forma di ripopolamento o di trasferimento? Lo siamo, rispose Schwonder. Ma l'Assemblea Generale, esaminata la sua richiesta, è giunta alla conclusione che nel complesso lei stia occupando una superficie eccessiva. Lei da solo abita in 7 locali. Io da solo vivo e lavoro in 7 locali, rispose Filip Filipovic, e vorrei tanto averne un ottavo. Mi è assolutamente necessaria una biblioteca. I quattro ammutolirono. Un ottavo? Proferì il biondino. Davvero mica male. È indescrivibile, esclamò il giovanotto che si era rivelato essere una donna. Ho una sala d'aspetto, notate bene, che è anche biblioteca, una sala da pranzo, il mio studio, e fanno 3. L'ambulatorio 4, la sala operatoria 5, la mia camera da letto 6 e quella della domestica 7. E in generale non è sufficiente, ma d'altronde non ha importanza. Il mio appartamento è stato esentato e la conversazione finisce qui. Posso andare a mangiare? Chiedo scusa, disse il quarto che assomigliava a un robusto scarabeo. Chiedo scusa, l'interruppe Schwonder. Siamo venuti a parlare proprio a proposito della sala da pranzo e di quella d'aspetto. L'Assemblea Generale le chiede di rinunciare volontariamente alla sala da pranzo, in conformità alla disciplina lavorativa. Nessuno ha sale da pranzo a Mosca. Nemmeno Isadora Duncan, gridò la donna con voce sonora. Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.